Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Buonasera e bentornati a Radio Doc. Tutti conosciamo Dracula come il famoso vampiro del romanzo di Bram Stoker, ma in realtà Dracula è un personaggio storico realmente esistito. Si tratta del principe Vlad III di Valacchia, un signore della guerra rumeno vissuto nel XV secolo e noto per il suo coraggio e la sua sadica crudeltà. Nonostante la sua brutalità, ancora oggi in Romania Vlad è considerato un eroe nazionale, l'ultimo grande artefice di una Valacchia indipendente. Durante il suo regno, Vlad ha fatto costruire numerosi castelli e inespugnabili fortezze per difendere la sua terra dalle invasioni dei Sassoni di Transilvania e dagli Ottomani. Questi edifici ancora oggi ricordano il glorioso passato. Scopriamo la storia di Vlad Dracula tra fantasia, sangue e architettura. La nostra storia ha inizio nel luogo di nascita di Vlad, una pittoresca città fortificata, Sighișoara, nel cuore della Transilvania. La città natale di Vlad era una delle più sicure di tutta la Transilvania. Le mura e le torri difensive, chiamate bastioni, erano spesse fino a 3 metri. Avevano la funzione di impedire che qualsiasi nemico potesse saccheggiare la città. Sighișoara era massicciamente fortificata perché era una delle città più ricche della Transilvania. Ma le persone che vivevano all'interno delle sue mura non erano rumeni, erano sassoni, uomini e donne di origine germanica. I sassoni erano migrati in Transilvania nel XII secolo, dove erano diventati mercanti e artigiani. In cambio, ebbero garantiti speciali privilegi nei commerci. May Trau, autore di Vlad the Impaler. Erano praticamente una razza a parte. I sassoni erano comunemente associati all'avidità, in quanto incarnavano la classe media di quell'epoca. Si arricchivano a spese della gente del luogo, i valacchi. Il padre di Vlad Dracula, un principe rumeno, strinse uno speciale accordo con i sassoni di Sighișoara. In cambio, a lui e alla sua famiglia fu permesso di vivere dentro le mura della città, nell'apparente sicurezza della cittadella. Ma nel 1447 il padre di Dracula fu assassinato da un clan rivale che conquistò il trono di Valacchia, la provincia meridionale della Romania. Vlad fuggì a nord, ma giurò che sarebbe tornato. Uno dei luoghi nei quali soggiornò era lo spettacolare castello di Bran. Oggi i turisti visitano il castello di Bran credendolo la residenza del conte Dracula, il protagonista del romanzo di Bram Stoker. Il vampiro della finzione viveva qui, tra i non morti, fino a quando non fu ucciso con un paletto conficcato nel cuore. Questo luogo era ritratto come la casa del male. Non era un semplice castello gotico, ma la più sicura e imponente fortezza sul confine della Transilvania. Il vero Dracula giunse qui verso il 1450. Per Vlad Dracula, il castello di Bran era il trampolino perfetto dal quale lanciarsi nella sua lotta per il potere. Nel 1456, il trono del principato rumeno di Valacchia fu conquistato da Vlad Dracula, l'uomo destinato a dare il proprio nome al vampiro più famoso del mondo. Suo padre, Vlad Dracul, era stato il regnante della Valacchia e un cavaliere dell'Ordine del Drago. Il drago era diventato parte dello stemma di famiglia. Draculea è un patronimico. Significa figlio di Dracula. C'è anche una relazione con Dracula che significa diavolo. Secondo la tradizione, Dracula, figlio del demonio, prese Târgoviște come sua capitale. Un luogo di leggendari orrori. Alcune delle più efferate atrocità di Dracula ebbero luogo qui. Ma quando vi giunse, era la sua vita a essere in imminente pericolo. Principi rivali, i boiardi, dominavano da sempre la politica in Valacchia. Sapendo che erano disposti a tutto per liberarsi di lui, Vlad era con le spalle al muro. O li uccideva, o sarebbe stato ucciso. Dottor Arie Nussbacher, storico militare. Per generazioni, i proprietari terrieri valacchi avevano cambiato alleanze, passando da un'alleanza all'altra in continuazione. Deciso a conservare il potere, Vlad capì che doveva per prima cosa sbarazzarsi dei boiardi. L'avversione di Vlad per i boiardi era anche di carattere personale. Ancora May Trau. Suo padre era stato assassinato dai boiardi e Vlad era animato dal sacro fuoco della vendetta. Aveva un vecchio conto da regolare e lo regolò. Ma prima di potersi liberare dei propri nemici, Dracula aveva bisogno di garantirsi una protezione. E tra le rovine di oggi si trovano tracce di un enorme progetto di costruzione che ebbe inizio oltre 500 anni fa. Tessa Dunlop, storica. Tutto ciò faceva parte di un suo astuto piano per costruire un'immagine di sé che evocasse potenza, che desse l'impressione che lui era il grande condottiero, l'invincibile voivoda di Valacchia. Il complesso di Tergoviste era stato iniziato dal nonno di Dracula. Suo padre vi aveva aggiunto un fossato largo 20 metri, ma Dracula realizzò un palazzo che superava tutti quelli realizzati in precedenza. La sala grande fu ricostruita fino a raggiungere l'estensione di 280 metri quadrati e un'imponente torre di guardia permetteva a Dracula di controllare il territorio circostante. L'intero complesso era chiuso tra mura spesse fino a un metro e mezzo. Sebbene rimangano pochi indizi, secondo alcuni i grandi sotterranei non contenevano solo le dispense del palazzo, ma anche oscuri segreti, tra i quali le stanze delle torture di Vlad. Una volta completato, il palazzo di Vlad consisteva in una serie di barriere facilmente difendibili. Ed McCain, ingegnere civile. La struttura era difesa molto bene grazie a una serie di barriere progressive. Dunque, gli aggressori avrebbero dovuto superare una serie di ostacoli. Superato il primo, si trovavano davanti al fossato ed erano attaccati dall'alto dagli assediati. Se i nemici superavano anche il fossato, i difensori si ritiravano all'interno e attaccavano gli intrusi dalla torre. Così gli invasori avrebbero subito ingenti perdite. Trasformata Tergoviste in un quartier generale ben protetto, Dracula iniziò a sterminare i suoi nemici, i boiardi. La sua spietatezza fu addirittura leggendaria. Ancora dottor Arie Nussbacher. Certamente, l'unico modo nel quale Vlad poteva liberarsi dei boiardi e consolidare il proprio potere consisteva nell'ucciderli tutti. La domenica di Pasqua del 1457, Dracula commise una delle sue più infami atrocità. Tese una trappola ai boiardi, invitandoli a una cena nella grande sala. Ancora May Trau. Vlad chiese loro quanti signori avessero avuto negli ultimi 50 anni e la maggior parte di loro non seppe rispondere perché ne avevano avuti troppi. E ne avevano avuti troppi proprio perché gli stessi boiardi li avevano spodestati uno dopo l'altro con la forza. Era esattamente la risposta che Vlad voleva sentire. I boiardi si erano condannati a morte da soli. Così, secondo la leggenda, ne fece impalare ben 500. L'impalamento era un metodo di esecuzione terrificante. Ancora Tessa Dunlop. Di norma si procedeva così. Si poneva il condannato all'estremità appuntita di un palo. Il palo entrava nell'ombelico o nel cuore e poi veniva sollevato. La vittima moriva di una morte rapida, se aveva fortuna. Il palo si faceva strada all'interno del corpo del condannato e potevano essere necessari alcuni giorni. In pratica la vittima agonizzava per lunghissime ore. Tergoviste era disseminata dei corpi impalati dei morti e dei moribondi, ma Dracula non uccise tutti subito. Per alcuni volle una morte più lenta. Li utilizzò per altri scopi. Al confine della Transilvania furono costretti a costruire una fortezza, il vero castello di Dracula. A 500 metri di altezza sul fiume Argeș, su una montagna pericolosamente scoscesa, sorgono le rovine di una fortezza, il castello di Poenari. La sua posizione era di fondamentale importanza. Il castello si trovava al confine tra il regno di Valacchia, sotto il dominio di Vlad Dracula, e il territorio montuoso della Transilvania. Ancora Tessa Dunlop. A sud del castello si trovavano le terre di Vlad, la sua Valacchia, e ovviamente a 80 chilometri sorge Tergoviste, la sua capitale. Ma non meno importante, a nord si estendeva la Transilvania, che comprendeva un paio delle sue roccaforti. Questa era la postazione più importante di Dracula. Da qui poteva muovere guerra ai suoi nemici, i Sassoni di Transilvania. In Transilvania vivevano i ricchi mercanti sassoni, i cui traffici e le cui cospirazioni minacciavano il potere di Vlad Dracula. Data la necessità di costruire il castello nel più breve tempo possibile, Vlad fece ricorso a tecniche non convenzionali e al lavoro degli schiavi. La costruzione ebbe inizio attorno a una torre di guardia realizzata al tempo di suo padre. David Baxter, storico. È una struttura molto inconsueta a causa della combinazione di pietra e mattoni. Questa tecnica avrebbe garantito una maggiore rapidità di costruzione. Sebbene si staglino in cima a un picco quasi inaccessibile, queste mura sono spesse quasi 3 metri e sono state realizzate con il metodo di costruzione bizantino. A tenere insieme le mura era anche il segreto della resistenza dei castelli in un'area come questa caratterizzata da frequenti sismi, la Malta di Calce. Pur colpite da numerosi terremoti di eccezionale violenza, le mura del castello di Dracula sono in gran parte ancora in piedi. Furono innalzate dai nobili risparmiati dal supplizio dell'impalamento dopo il massacro di Pasqua a Tergoviste. Ridotti in schiavitù e costretti a marciare fino a Poenari, dovettero patire una morte lenta e dolorosa. Ma il castello non fu costruito dai soli schiavi. Un ingegnoso elemento dimostra che alla costruzione parteciparono anche specialisti di alto livello. I tetti del castello, infatti, convogliavano l'acqua piovana nella cisterna. Una volta completato, il castello occupava l'intera vetta della montagna. Era largo 10 metri e lungo 55. Come un nido d'aquila, il castello di Dracula garantiva una grande sicurezza, nonché il controllo di un valico di fondamentale importanza strategica. Ma al di là del confine, in Transilvania, i mercanti sassoni stavano cospirando contro di lui. Per proteggere i loro affari, avevano deciso di sostenere un rivale pretendente al trono di Vlad. Ancora Tessa Dunlop. Questo castello era per Vlad un'importante base dalla quale sferrare i suoi attacchi ai sassoni transilvani. Fece loro capire che se volevano continuare a sfruttare le vie dei commerci, dovevano piegarsi al suo volere. Era imminente uno scontro di grandi proporzioni. Vlad Dracula avrebbe dovuto fare ricorso a tutta la sua astuzia per superare le difese di una delle città meglio fortificate di tutta Europa. Era deciso a prendersi una terribile vendetta. Radio Doc. Proseguiamo con la seconda parte del radiodocumentario su Vlad III di Valacchia, principe rumeno del XV secolo, meglio conosciuto come il Conte Dracula. Le cronache germaniche riferiscono che nel 1459 Vlad Dracula, il principe rumeno, diede inizio a una campagna di terrore. Una campagna tanto efferata da rendere il nome Dracula indimenticabile. Radunate le sue truppe al castello di Bran, marciò sulla Transilvania. I mercanti sassoni stavano complottando per spodestarlo e lui intendeva punirli. La loro base era a Brașov, la più ricca e meglio difesa città della Transilvania. I sassoni pensavano di essere al sicuro grazie alle loro possenti fortificazioni, ma sottovalutavano l'astuzia di Dracula. Era cresciuto in una città sassone. Conosceva il loro modo di combattere. Sapeva che un assalto frontale avrebbe portato solo a una sconfitta. Così colse Brașov di sorpresa, attaccando di notte e saccheggiando i suoi sobborghi prima che la popolazione avesse il tempo di rifugiarsi all'interno delle mura. Tutti i prigionieri furono impalati sulle colline circostanti. Secondo le cronache sassoni, morirono migliaia di persone. Una volta sottomessa Brașov, Vlad rivolse le proprie attenzioni all'impero ottomano. I confini della superpotenza musulmana di quell'epoca lambivano il territorio di Vlad. Dottor Arie Nussbacher, storico militare. L'impero ottomano continuava a guardare verso Occidente, verso l'Europa, considerata il prossimo territorio da conquistare. E a parte qualche tribù come i Valacchi, non c'erano forze in grado di fermare i turchi. Ma Vlad Dracula era determinato a resistere. Iniziò così a concentrare le sue costruzioni nella parte meridionale del regno. Lì eresse un impressionante palazzo in mattoni e pietra. Per 5 secoli è rimasto perduto nel tempo. Nascosto sotto le strade di Bucarest, c'è il mondo segreto di questa residenza, un tempo grandiosa. Queste antiche mura celano le vestigia di un'antica gloria, la cui stessa esistenza era nota a pochi. Tessa Dunlop, storica. Pensiamo a Vlad come a un guerriero sempre in lotta, ma non dimentichiamo che era anche un uomo dotato di grande fiuto per gli affari e questa era una rotta commerciale molto importante. Vlad sapeva che i turchi potevano minacciare le vie dei commerci in qualsiasi momento. Così eresse il proprio palazzo in gran fretta, affidandosi ai migliori specialisti disponibili. Ancora Tessa Dunlop. Chiamò degli scalpellini transilvani e un migliaio di operai per assicurarsi che il suo palazzo fosse completato nel più breve tempo possibile. Si trattava di una fortezza più che di un palazzo dallo stile prezioso. Dracula aveva ormai saldamente in pugno la Valacchia, ma i suoi più feroci nemici, i turchi dell'impero ottomano, erano in attesa al confine. Dracula, un tiranno assetato di sangue, aveva bisogno a quel punto di trasformarsi nell'eroico difensore dell'Europa cristiana e le fortificazioni da lui erette sarebbero state messe a durissima prova. Dopo aver messo al sicuro il proprio paese con una serie di palazzi fortificati, Vlad Dracula, principe di Valacchia, iniziò a pianificare la guerra. All'interno delle mura spesse un metro e mezzo del suo palazzo di Tergoviste, Vlad ricevette una delegazione dei turchi ottomani. Le armate dei turchi conquistatori avevano ormai raggiunto i confini del suo regno e minacciavano l'Europa cristiana. Secondo la leggenda, l'inviato chiese a Vlad di pagare un tributo, ma il principe rifiutò, affermando che l'inviato lo aveva insultato. May Trau, autore di Vlad the Impaler. I turchi non si erano tolti i turbanti. Vlad si sentì insultato. La delegazione degli ottomani disse che non era al loro costume togliersi i turbanti. Così Vlad ordinò che non potessero mai più toglierseli e glieli fece inchiodare alla testa. Nell'inverno del 1461, Dracula e i turchi erano in guerra. Con inaspettata velocità e grande spregiudicatezza, Dracula condusse il proprio esercito in una brillante campagna nel territorio nemico. I suoi uomini passarono a fil di spada chiunque incontrassero sulla loro strada. Ancora dottor Arie Nussbacher. Un nobile come Vlad non poteva tirarsi indietro in battaglia. Doveva mostrarsi impavido, altrimenti non avrebbe ottenuto il rispetto delle sue truppe. Vlad fece ritorno alla sicurezza delle fortificazioni di Tergoviste. Nel 1462 scrisse ai regni confinanti, chiedendo aiuto ai cristiani come lui. Con un dispaccio, diede prova della sua abilità militare. 23.884 nasi mozzati ai nemici abbattuti dal suo esercito. Il sultano turco Mehmet, anch'egli un feroce generale, si mosse per incontrarlo in battaglia e portò con sé un esercito le cui forze erano pari al triplo di quelle di Vlad. Sebbene Tergoviste avesse difese formidabili, Vlad sapeva che non avrebbe potuto resistere a un lungo assedio. Ed McCain, ingegnere civile. Per penetrare attraverso una tale linea difensiva si poteva corrompere qualcuno all'interno delle mura oppure era possibile prendere per fame gli occupanti. Si poteva resistere a un assedio per qualche settimana, ma non era certo possibile restare barricati in un castello per 3 anni. Vlad fu costretto a cambiare tattica e a darsi alla macchia. Ancora dottor Arie Nussbacher. Mehmet era un maestro della guerra psicologica. Ma si ritrovò a fronteggiare un guerriero ancora più bravo di lui in questa specialità. Vlad usava selvagge tattiche di guerriglia. Restava nascosto nelle fitte foreste della Romania per colpire con brutalità e scomparire di nuovo. Mentre i turchi avanzavano, Vlad impiegò ogni tattica possibile per fiaccare il loro morale. Li attaccò di notte, avvelenò i loro pozzi, bruciò i loro campi. Arrivò perfino a pagare degli uomini malati affinché si infiltrassero fra i turchi per trasmettere loro le infezioni. La campagna di terrore psicologico di Vlad raggiunse il suo apice all'esterno delle mura di Tergoviste. Abbandonato il proprio palazzo, lasciò alle sue spalle uno spettacolo che avrebbe fatto rabbrividire il sultano per il resto della sua vita. Così nacque il soprannome turco di Vlad, Lo chiamarono Kazikli Bai, il signore impalatore. Ancora dottor Arie Nussbacher. Lo stesso Mehmet, anch'egli uomo di inaudita ferocia, rimase scioccato. La vista di 20.000 cadaveri infilzati nei pali, con le viscere pendenti, impressionò anche un esperto e valente guerriero come Mehmet, tanto da metterlo in fuga. Il sultano, traumatizzato, si ritirò nella sua terra, lasciando ad altri l'incombenza di combattere Dracula. Questi lo respinsero, costringendolo a riparare nella propria fortezza di Poenari, il castello di Dracula. La posizione del castello e le sue difese rendevano impossibile un assalto frontale. Tessa Dunlop, storica. Studiarono uno stratagemma. Inchiodarono i ferri di cavallo al contrario, lasciando fuggire Vlad con quei cavalli nel cuore della notte. Quando i turchi videro le orme dei cavalli, pensarono che Vlad fosse andato al castello, mentre in realtà lo aveva lasciato. Dracula fuggì in Transilvania, in esilio. Ma 10 anni dopo tornò a reclamare il proprio trono. Tornò al proprio palazzo di Bucarest e ancora una volta si diede a preparare le difese per respingere un'invasione da parte dei turchi. Ma prima che avessero inizio i lavori, il regno di Dracula ebbe fine. May Trau, autore di Vlad the Impaler. La morte di Vlad è avvolta nel mistero. Quasi certamente fu ucciso in battaglia, ma non sappiamo se si trattò di uno scontro leale o di un omicidio. Secondo il folklore locale, fu seppellito sulla bellissima isola monastero di Snagov. Un tempo circondato da mura di pietra fortificate, il monastero fu in seguito usato come prigione. Vi venivano detenuti i traditori di alto rango e si dice che l'intera isola sia disseminata di innumerevoli ossa umane. Oggi il monastero è un luogo di pellegrinaggio per gli appassionati di Dracula. Si dice che il suo corpo riposi in una tomba presso l'altare, ma che la sua testa fu mozzata e inviata al sultano per dimostrargli che il nemico era finalmente morto. Nessuno degli scavi effettuati ha potuto provare che il corpo di Vlad si trovi a Snagov. Il luogo della sua sepoltura rimane un mistero. Oggi in Romania Vlad Dracula rimane un eroe nazionale, nonostante la sua brutalità. Nicolae Paduraru, presidente della Transylvanian Society of Dracula. Vlad è considerato un eroe, così lo vedono i rumeni. Un combattente per la libertà, un nazionalista, un difensore del popolo. Dracula è stato l'ultimo grande artefice di una Valacchia indipendente. Poco dopo la sua morte, i turchi conquistarono quella terra e proibirono di costruire fortificazioni. Ma i castelli di Dracula ricordano ancora oggi il glorioso e libero passato di quella terra. Il palazzo reale di Târgoviște, da lui completamente riprogettato. Le rovine di Bucarest, compreso il castello. E l'inaccessibile fortezza di Poenari, il vero castello di Dracula. Essi simboleggiano l'impronta indelebile lasciata da Vlad Dracula sul suo paese. Non solo nelle rovine dei suoi palazzi, un tempo grandiosi, ma anche nella memoria del suo popolo. Prima di chiudere, vi segnaliamo che il documentario andrà in onda su History Channel martedì 10 febbraio alle 17 con il titolo originale I segreti del tempo, il conte Dracula. Un ringraziamento in redazione a Vittoria Mussini. Radio Doc si chiude qui. Buonanotte.